Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Dallo studio dell'emittente radiofonica Rock FM. Trasmettiamo Eclettica! Cari ragazzi, buon pomeriggio. Il programma Eclettica, rubrica dedicata ai problemi tecnici dell'agricoltura, di e con Giulio Caperdoni. Inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Da parte mia a tutti voi l'augurio di una buona visione. Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buon pomeriggio. Buonasera. Sera. Sera. Sera. Tra qualche istante vi trasmetteremo a colori Eclettica! Eclettica! Eclettica! Andrà in onda tra qualche istante Eclettica! Signore e signori, vi auguriamo buonanotte. Buonanotte. Buonanotte. È arrivato il momento della Eclettica edizione speciale. Ne ho parlato tanto io nei giorni scorsi, ne ho scritto e ne avete scritto anche su www.rockfamily.it e finalmente ci siamo arrivati. È un'Eclettica che non vede solo Giulio Caperdoni, anzi lo vede meno presente rispetto al solito, in quanto i film, in quanto i libri sono stati scelti da quasi tutte le altre voci di Rock FM. In questa 24 ore non stop di chiusura di Rock FM, ognuno di loro ha voluto lasciare un segno, lasciare capire qualcosa di più di se stesso con la scelta del film e la scelta dell'incipit. E cominciamo con il cialtrone, ovvero sia l'Ariele. Dico così perché avevo dato delle indicazioni sui tempi da rispettare per quanto riguarda le letture degli incipit. E lui, invece, lui è andato assolutamente oltre. Però era talmente a tema quello che ha letto che non mi sono sentito di tagliarlo. E adesso che dovrei fare? Cercarmi un protettore? Eleggermi un signore? No, grazie. Dedicare con musa ogni ghiottone dei versi ai finanzieri? Fare l'arte del buffone pur di vedere al fine le labbra di un potente atteggiarsi a un sorriso benigno e promettente? No, grazie. Saziarsi di rospi? Digerire lo stomaco per forza dell'andare e venire? Consumare le ginocchia? Misurare le altrui scale? Fare continui prodigi di agilità dorsale? No, grazie. Accarezzare con mano abile e scaltra la capra e intanto il cavolo innaffiare con l'altra? E avere sempre il turibolo sotto dell'altrui mento per la divina gioia del mutuo incensamento? No, grazie. Progredire di girone in girone, diventare un grand'uomo tra 50 persone e navigare con remi di madrigali e avere per buon vento i sospiri di vecchie fattucchiere? No, grazie. Pubblicare presso un buon editore, pagando i propri versi? No, grazie dell'onore. Sudar per farsi un nome su un piccolo sonetto anziché scriverne altri? Scoprire ingegno eletto agli incapaci, ai grulli, alle talpe da reali, lasciarsi sbigottire dal rumor dei giornali e sempre sospirare, pregare a mani tese, purché il mio nome appaia sul mercurio francese? No, grazie. Calcolare, tremare tutta la vita, far piuttosto una visita che una strofa tornita, scrivere suppliche, farsi qua e là presentare? Grazie, no. Grazie, no, grazie, no. Ma cantare. Sognar, sereno e gaio, libero, indipendente. Avere l'occhio sicuro e la voce possente. Mettersi quando piaccia il feltro di traverso, per un sì, per un no. Battersi o fare un verso. Lavorar, senza cura, di gloria o di fortuna. Nulla che sia farina d'altri scrivere. E poi modestamente dirsi, ragazzo mio, tu puoi tenerti pago al frutto, pago al fiore, alla foglia, purché nel tuo giardino, nel tuo, tu li raccoglia. Poi, se venga il trionfo, per fortuna o per arte, non dover darne a Cesare la più piccola parte, avere tutta la palma della meta compita, e disdegnando d'essere l'ellera parassita, pur non la quercia essendo o il gran tiglio fronzuto, salire, anche non alto, ma salir senza aiuto. Avevo detto come l'Ariele non avesse seguito esattamente alla lettera le indicazioni che avevo dato. Oltre alla durata, non ha rispettato anche quella che richiedeva alla fine della lettura del brano la citazione del testo e dell'autore. E allora, visto che l'Ariele non l'ha fatto, ve lo dico io. L'Ariele ha scelto un estratto dal Cyrano de Bergerac di Edmond Rostand. E invece ha scelto, ma arriverà solo dopo il brano dei Canadians che sta per partire, ha scelto un estratto da uno dei miei film preferiti di Woody Allen. Non vi dico qual è questo film, ma è uno dei film del primo periodo di Woody Allen. Invece, evidentemente, vi siete appena ascoltati Hoppy Polla, però non nella versione dei Sigur Rós. Era una grande cover da parte dei We Are Scientists. E vi anticipo che dopo l'Ariele sarà la volta di Claudio. Yeah. pomeriggio. Telemondo Sport è oggi nella piccola Repubblica di Bananas. Stiamo per trasmettervi in diretta un assassinio di capo di governo. Sarà ucciso il presidente di questo ameno paese dell'America Latina e immediatamente sostituito da una dittatura militare. E tutti qui sono al colmo della tensione e dell'eccitazione. Ideale il tempo in questo pomeriggio domenicale e se ci avete seguito avrete visto vari pittoreschi tumulti, iniziatisi con la tradizionale bomba all'ambasciata americana, un costume antico come la città stessa. Dopodiché il capo dei sindacati, Don Julio Doas, strappato da casa, è stato linciato dalla folla furente. È stato uno degli spettacoli più emozionanti a cui abbia assistito. Probabilmente vi sarà trasmesso in replay in seconda serata. Tutto intorno pittoreschi copricapo e bandiere. Ed ora siamo giunti al momento che abbiamo tanto atteso. La folla si fa silenziosa. Il presidente sta per lasciare il suo ufficio e scendere lo scalone del palazzo. Perciò, ora passiamo sul terreno di gioco. A te la linea, Howard. È formidabile, Don, è formidabile. L'atmosfera è pesante, incerta. L'atmosfera dei grandi incontri. Could be wrong. You say you told me that you wanna hold me, but you know you're not that strong. I just can't do what I've done before. I just can't beg you anymore. I'm gonna let you pass. But you know sometimes you lie. You say you're shaking and you're always aching, but you know how hard you try. Sometimes it gets so hard to care. Can't be this way everywhere. Aprile 1955. Lo scrittore Truman Capote assiste con Marilyn Monroe ad un funerale. Ho bisogno di una tintura, dice lei, e non ho avuto tempo di farla. Gli mostra un segno scuro lungo la scriminatura. Santa ingenuità, e io che ho sempre creduto che tu fossi una bionda autentica. Lo sono, ma nessuno lo è naturalmente così. E a proposito, vai a farti fottere. Questo era l'incipit di Marilyn, Ultimi giorni, ultima notte di Michael Schneider. Thank you. L'intensità della musica degli I Like Trains con Terra Nova, che hanno seguito le parole del libro scelto da Claudia. Prima ancora invece era stato Bob Dylan, remixato da Mark Ronson, un vecchio brano reso nuovo in questa versione. Brano intitolato Most Likely You Go Your Way and I'll Go Mine. Invece quello che seguirà è Josh Homme, però attenzione, non è un suo disco, ma è la partecipazione all'ultimo disco di James Lavelle, che come al solito si presenta sotto lo pseudonimo di Uncle. Tutto questo succede nell'eclettica edizione speciale che sta andando in onda nelle ultime 24 ore di esistenza di una radio chiamata Rock FM. Stasera alle 18 si spegne il segnale, ma comunque questa trasmissione, nei limiti del possibile, sarà disponibile in podcasting, e di questa trasmissione sarà disponibile la playlist, quindi il dettaglio di tutti i brani, i libri e i film che la compongono. Film come quello che arriverà dopo il brano di Uncle, scelto da Claudia, ma sì, dai, vi anticipo il titolo, Orgoglio e Pregiudizio, l'avreste mai detto. Mentre sempre a proposito di film, quello scelto da parte di Ariele, quello di Woody Allen, era Il dittatore dello Stato libero di Bananas. Puzzling, Mr. Darcy. At this moment, it's difficult to believe that you're so proud. At this moment, it's difficult to believe that you are so prejudiced. Shall we not call quits and start again? Shining like a Se questa vita ha una sua logica, mi piacerebbe sapere qual è. Sono di nuovo a New York, al Chelsea Hotel. In quell'albergo mi sono fatto montagne di droghe. E adesso sono qui per smettere. Strano, no? Fra 2 settimane è il mio compleanno. 2 settimane fa ho sospeso il metadone, la droga che crea più dipendenza fra tutte quelle che conosco. Sarà la prova più difficile, lo so. Un'esperienza che non dimenticherò. Tutti i demoni del passato sono qui a tormentarmi. Si dice che il Chelsea Hotel sia infestato dai fantasmi. Io ci credo. Proprio in questo momento una libellula sta volando per la stanza. Una libellula femmina, come Connie, uno dei miei demoni di tanto tempo fa. È volata dentro questa camera d'albergo 17 anni fa, senza neanche prendersi la briga di bussare. Di punto in bianco ha spalancato la porta, vomitandomi addosso bestemmie, così. Era ubriaca fradicia. Alla fine è svenuta e si è fatta passare la sbornia dormendoci sopra. Ma prima ha completamente distrutto la stanza. Questo era l'incipit di Blitzkrieg Punk, Sopravvivere ai Ramones, con Veronica Kaufman di Didi Ramone. Can't get my mind out of your floating ground. Wanna put a ring on your little finger. When I propose to you, you just laugh. You squish me flat with your thumb and finger. When I call you up on your telephone, you always say that you want me to come over. You shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake. You shake, shake, shake, shake. You think I'm too dumb to when you roam. Cocaine and drugs and alcohol. The one defend from you, girl. The one defend from you. The one defend from you. The one defend from you. Tired of your words. Friends and the things they do. You And I'm tired of waiting here for you. I don't want nothing from you, girl. I don't want nothing from you. You think I'm too dumb doing you wrong? Cocaine and drugs and alcohol. I don't want nothing from you, girl. I don't want nothing from you. I don't want nothing from you. I don't want a thing from you. Don't want a thing from you. È stato Edo ad irrompere in Eclettica edizione speciale con la lettura del suo libro, direi molto in linea con le cose che lui fa. Quando io ho chiesto alle varie voci di Rock FM il loro contributo per la partecipazione ad Eclettica edizione speciale, non sapevo che tipo di risposte avrei ottenuto. In certi casi mi hanno completamente sorpreso, invece nel caso di Edo sono perfettamente in linea. Anche quella del film, è un film in cui io ce lo vedo, magari a doppiare proprio uno dei personaggi di quel film. Parlano più o meno come lui, è un film che gli sta perfettamente addosso. Si tratta di Goodfellas. Per quanto riguarda invece la musica che tiene assieme al tutto e aiuta a costruire l'atmosfera di Eclettica, prima di Edo, Guster con Satellite, dopo Edo, The Blakes, Two Times. Ed ora, dal Canada, Caribou con Melody Day. We'll be right back. They're the big cops. Really funny. Really funny. What do you mean I'm funny? It's funny, you know. It's a good story. It's funny. You're a funny guy. What do you mean? You mean the way I talk? What? It's just, you know, you're just funny. It's funny, you know, the way you tell the story and everything. Funny how? I mean, what's funny about it? Tommy, no, you got it all wrong. Anthony. He's a big boy. He knows what he said. What'd you say? You're right. Funny how? What? Just, you know, you're funny. You mean, so? Well, let me understand this, because maybe it's me, I'm a little fucked up, maybe. But I'm funny how? I mean, funny like I'm a clown, I amuse you. I make you laugh. I'm here to fucking amuse you. What do you mean funny? Funny how? How am I funny? I'm not just, you know how you tell a story. What? No, I don't know. You said it. How do I know? You said I'm funny. How the fuck am I funny? What the fuck is so funny about me? Tell me. Tell me what's funny.